Cruciani. Si guadagna da vivere a suon di querele, insulti, racconti ogni giorno alla Zanzara di Radio 24. È famoso per essere il Paganini della TV, la sua sublime Radio Belva ha ballato una sola notte. Il suo peggior nemico è chi mette in dubbio il suo curriculum di sciupa femmine. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Il riso pilaf col pollo tandoori mi fa venire un po' di acidità. La gazza arriva a cima dell'80, io non ne posso più di stare qua. E Mambo Nino mi ha telefonato, ha detto vi riporteremo qua il giorno dopo l'hanno silurata e mi ritorna un po' di acidità. Niente da fare, siamo qui da mo, 2 anni in India, che 2 marò, noi prigionieri in questa città. Certo che ci sono degli imbecilli in giro, caro David, degli imbecilli patentati, degli imbecilli patentati. Allora, state sentendo che cosa? La canzone di Luca e Paolo a Jazz domenica scorsa, no? Lasciamo perdere gli ascolti, i risultati, non me ne fotte nulla. Qualcuno ha fatto polemica? Qualcuno ha fatto polemica? Io so addirittura di un intervento del capo di Stato Maggiore dell'Esercito su Canale 5. Ti giuro, il capo di... Dai. Ti giuro! Come direbbe Mughini, è da... Ma è geniale sta canzone! È geniale! Ma è una canzone a favore dei Marò! Ma no, ma questo è evidente! Cioè, sull'incapacità, cioè, è sull'incapacità dei della politica di portarli a casa. Eppure ci sono delle persone, credo. Non si può fare ironia sui Marò, non si possono utilizzare i Marò per una canzone, ma di che parliamo? Ricoletta! E poi l'ha inchiaffettato colpi di gente di mare! Se ne va, tranne noi due, che restiamo qua. Chi va e chi resta? Berlusconi per il momento smentisce, c'è una guerra interna, una faida pazzesca tra i figli. Barbara, anzi Marina contro Barbara, tutti contro tutti, la vecchia guardia contro la Pascale e il nuovo cerchio magico intorno a Berlusconi. Berlusconi dice tutta un'invenzione dei giornali, Barbara candidata. E invece Barbara che c'ha voglia cose candidata. Inventate dai giornali. Tandori mi fa venire un po' di acidità. Scaiola, la gazza arriva, ma quella dell'80 è formidabile. Scaiola, Berlusconi è troppo chiuso in casa, cioè vuol dire sostanzialmente che è prigioniero della Pascale di Rossi. Non parli di case, Scaiola, anche se tutto è regolare, però. Ma perché non dovrebbe parlare di case? È stato assolto. Battuta sciocca. Dai, su. Sì. Il giorno dopo lui, quindi, in questo momento, molto chiuso in casa. Certamente trova conforto in coloro che stanno più tempo con lui. Ecco, forse si è un po' troppo chiuso con queste persone che a fin di bene gli stanno insieme per tirarlo su, ma credo che sarebbe necessario avere anche degli organismi in cui si possa parlare e confrontarsi anche con gli altri. Vuole dire, adesso vi traduco il politichese di Scaiola, che da vecchio democristiano vorrebbe dire delle cose, ma ovviamente non le può dire, e non le può dire esplicitamente. Ma come si fa ad accettare che la Pascale, che Francesca Pascale, fidanzata di Berlusconi, possa rilasciare un'intervista in cui spara zero su tutti. Non ci importa se il tuo sangue. In cui parli di politica, questo deve essere fatto così, si deve candidare Marina Berlusconi oppure la fine di Forza Italia, e poi no ai falchi, eccetera, eccetera. Come si può accettare in un dibattito politico normale? Infatti, il vecchio Antonio Martino nel Weekend, che non ha peli sulla lingua e se ne fotte, dice: non prendiamo lezioni da una Francesca Pasquale qualunque, no? Sì, sì. Perché noi siamo zanzare, facciamo quel che ci pare. Le zanzare. Tanto per far incazzare un ospite che è già collegato, sentiamo un esponente di Forza Italia, un tale Germanà. Germanà. Non ho mai sentito sul Germanà. Sì, no, numero uno, il quale dice: senti, ci siamo impoveriti in famiglia. Senti, è eccezionale, a fare politica ci siamo impoveriti. Io ho parecchi in famiglia parlamentare. Ah, lei ha parecchi parlamentari in famiglia? Qua dentro c'è un mio nipote, fino a poco fa, mio padre è stato un parlamentare, mio fratello due volte al Senato, due volte alla Camera, i miei cognati senatori e deputati, sempre con le preferenze, non se lo dimentichi questo, eh. Come si chiama lei, dico? Germanà. Voi siete una dinastia come quella di Berlusconi? Ci abbiamo rimesso. Perché? Perché non ci siamo arricchiti con la politica. Vede che al parlamentare non resta nulla alla fine del mese. Ci siamo impoveriti. Ci siamo impoveriti. Ci siamo impoveriti a fare politica, un'intera generazione, il signor Germanà. Signor Germanà. Come prudono le mani, come prudono. Come molto bella prudono la musichetta sotto di Germanà. Stellari. Rimandiamo Grillo da Mentana dopo, va. Rimandiamo tutto a dopo. No, anzi, facciamo solo una cosa di Grillo. Mandiamo la parte in cui ha detto che hanno mandato Bersani al massacro e ha le prove del complotto. Del complotto. Del complotto. Del complotto di Letta. Del complotto di Letta, che era a pranzo dall'ambasciatore inglese. Tra l'altro, l'ambasciatore inglese con l'euro e queste cose qui non c'entra una mazza, perché è fuori dall'euro. È fuori dall'euro. Ma comunque, lasciamo perdere. Ma perché Metano gli è scoppiato a ridere in faccia? Perché punto. Poi non puoi scoppiare a ridere in faccia a uno che ti concede un'intervista, no? Non puoi. Piaglia a ridere. Poverino Bersani è stato mandato al massacro dai suoi e è caduto di nuovo nella trappola di non considerarci, perché lui non voleva governare col Movimento 5 Stelle, che eravamo la prima forza del paese e la forza nuova che è arrivata. Voleva dei senatori, dei voti, per votare lui, l'ho anche detto in televisione. Mandato al massacro sapendo che dicevamo di no, perché la mia campagna politica era ma via tutti. Ma perché l'ha fatto allora? Perché, cioè, l'hanno mandato a me come perché a tanti dietro, altri dietro. È sembrato chiaro, lei in campagna elettorale l'ha detto, l'hanno chiaramente fatto, non governeremo mai con nessuno. L'hanno fatto per mandarlo al macello, perché dietro c'era già Letta e io ho le prove. Io ho le prove, il le pranzo prove all'ambasciata inglese, senti. Ma. E le prove è l'ambasciatore di Londra, l'ambasciatore inglese all'ambasciata di Roma ci ha invitato a pranzo. Cioè Christopher. Sì, l'ha detto anche in televisione questo signore, non mi ricordo il nome, l'ambasciatore inglese a Roma. Siamo andati a Casaleggio a pranzo da lui. Quando siamo andati lì, il pranzo era io, lui e Letta. Letta è sopra che aspetta per mangiare con lei. Io ho detto: io sono venuto per mangiare con lei e dato che mi ha invitato. Ha costretto l'ambasciatore a mangiare due. No, volte. Io non ho mangiato con nessuno. Io non ho mangiato con Letta, vuol dire che questo succedeva un mese prima di Gargamella, un mese prima, quindi erano i giochi, erano già fatti, caro signore. I giochi sono sempre fatti. Adesso, con tutto la comprensione possibile, il pranzo all'ambasciata inglese come prova una del volta complotto contro Bersani. Ma una volta amico mio, andava nelle Falkland, ora deve ricevere Grillo, basta! L'Inghilterra della Thatcher vogliamo! Quella che andava lì, non che va a pranzo con Grillo. Vabbè, ma lasciamo perdere, ma l'ambasciatore cos'è? Inglese ma perché l'ambasciatore tutti, deve che perdere tempo con Grillo? L'ambasciatore inglese! Inglese! Abbiamo con noi Fabrizio Bracconeri, buonasera! Buonasera a voi! Come andiamo? Della terza C. Come andiamo? Benissimo, grazie! Bruno Sacchi, famoso Bruno Sacchi nel telefilm della terza C. Una volta quando ero giovane, adesso oramai invecchiato, dimagrito, cambiato. Ma sei pure dimagrito, scusa, adesso c'hai 50 anni, quanto avevi quando facevi la terza C, Bruno Sacchi? 24, 25. Sei l'unico caso di una persona che era più grassa quando era giovane. È vero, bravo. Sai, nella vecchiaia bisogna maturare. Bisogna ma quanto pesavi all'epoca, scusa? Quanto pesavi? Pesavo 136 kg. 136? Ammazza. Sì. E adesso? E che te bagnavi? 87. Ammazza, e come hai fatto? Ma sono stato male per una malattia, poi ho fatto un'operazione perché visto che non si dimagriva, ho pensato di dimagrire un po'. Ah, hai fatto un'operazione per dimagrire pure? La diversione, sì. La diversione. Beh, potrebbe essere di insegnamento per molti in politica, eh. In politica di solito si ingrassa, no? Si ingrassa. È vero che ingrassano. Perché? Perché? Perché mangiano, dici, eh? Senti, ma alla fine ti candidi o no sta Parlamento europeo? Ci vuoi risolvere questa cosa con Fratelli d'Italia? Sì. Guarda, io ti dico la verità. Dai, la verità nient'altro che la verità. Un partito piccolo che a me piace molto. E questo lo sappiamo. È il presidente, esatto, Giorgia Meloni, il loro pensiero. Allora... Però candidarsi è una cosa che va valutata bene, perché se fosse la mia intenzione candidarmi per far politica o per essere un politico o per arrivare ad altri scopi, sarebbe stato più facile magari attaccarmi a un carro che sicuramente possa... Vabbè, ma questa candidatura, non fare il politichese qui. No, cioè dice che non prenda voto, dice che è più rischioso. La scelta proprio di un partito così piccolo, di non avere neanche una garanzia che possa entrare, se non sorpassa la soglia del 4%, non può entrare. Questo dimostra la mia voglia, la sincerità, veramente di essere la voce del popolo. Per cui alla fine ti candidi, voce del popolo, ti candidi o no? Credo sì. Che forse alla fine un pensierino ce lo farò. Beh, forse alla fine, ma non me fa il democristiano qui a Fabri, no. Democristiano ti prego, no, democristiano. E dai, su. Senti una cosa, ma tu lo sai dov'è il Parlamento europeo? Almeno questo lo saprai. Dove ha sede? Dove ha sede? Dove ha sede? Uno a Strasburgo e uno a Bruxelles. Mazza oh! Ah, fantastico. Mazza oh! Sembro cretino, ma non lo sono. Mazza oh! Lo sai che molti, secondo me, non lo sanno, molti che si candidano. Ma io ho visto, guarda, ti dico la verità, molti dicono dove vai, dove dici, perché bisogna parlare l'italiano, scrivere bene. No, quello no, ma, quello no. Permettimi di finire. Ho visto veramente alcune interviste sulla gabbia che facevano i nostri politici, ma dovrebbero essere loro imbarazzati che in Italia non sanno quello che si fa in Italia. Secondo me andare in Europa o comunque al Parlamento, credo forse sia meglio essere un po' sgrammaticati ma essere a favore del popolo italiano. Quindi se si basa molto più alla cultura ma poco al popolo. Scusami un attimo, popolo è il nome del popolo italiano, ma tu dici di essere la voce del popolo, no? Giusto? Io sono uno del popolo, non sono un politico. Io sono uno che ha fatto fino a ieri il cittadino come tutti. Ma se dovessi scegliere tra lo scudetto alla Roma, perché tu sei da Roma, no? Sì. Frascico sei, come si dice in genere? Sei romanista avvelenato. Dovessi scegliere sicuro tra l'elezione al Parlamento europeo e lo scudetto da Roma, dimmi la verità. Fabri, dimmela sinceramente. Dimmi la verità. Preferirei che Fratelli d'Italia sorpassasse il 4%. Vabbè, dai, più dello scudetto della Roma. Ma tanta Roma quest'anno lo può vincere, è difficile. Ci proveremo fino alla fine. Ma la Juve rubacchia. E deve lottare per vincere. La Juve rubacchia un po', La Juve purtroppo sì, un po' rubacchia. Rubacchia, Vabbè, diciamo che ieri contro il Catania poteva fare 16 gol e ne ha fatto uno alla fine. Però alla fine è sempre la solita storia, c'è sempre... Però se dobbiamo dire, la Juve è stata aiutata, favorita, però è pure forte, non è che si può dire che non è forte. Meno male, certo, meno male. Certo, essere, questo pure questo va sempre con le... Essere forti e avere più i favoritismi degli arbitri, questo mi dà un po' fastidio. Dimostra che sei forte, punto, senza aver favoritismi. Traffico, torniamo subito. Fabrizio Bracconeri verso Bruxelles, o no? C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico, no, vi prego, il traffico. No. La Zanzara. Io non credo che la pasta asciutta possa essere stata la dieta per dimagrire, Hai avuto bisogno del... No, la pasta asciutta fa dimagrire, credimi. Ma quando mai, Bracconeri, andiamo, Fabri, dai. Come... La pasta asciutta è l'alimento più completo che ci sia, ti dà la forza di sorridere e ti porta all'allegria. Senti, ma non ho capito. Non mangio cose strane e non pratico i fast food, quelle cose le lascio a Robin Hood. Io sono nato sotto il sole, fretta non so cosa sia, mangio la pasta da solo o in buona compagnia. Ma com'è che faceva la canzone? La sai ricantare o no? Come, l'ho scritta insieme a un altro. No, ma com'è che faceva? Provaci un po'. La pasta asciutta è l'alimento più completo che ci sia, ti dà la forza di sorridere, ti porta l'allegria. La pasta asciutta è la mia dieta e di migliori non ce n'è. Se vuoi star bene, mangia pasta insieme a me. La pasta asciutta è l'alimento più completo che ci sia. ci sta. Io lo sai che beh, io sai fa... portare questo in Europa avrebbe un senso, però ad esempio il primo incontro tra l'onorevole Bracconeri e la signora Marine Le Pen, ad esempio, sarebbe strepitoso. Beh, ti piace Marine Le Pen, Fabrizio? Molto, vabbè, come siamo molto? Al top qui, eh. Come no, molto? Mi piace, aspetta. No, ti piace come politicamente. Donna? Come donna, no. Io chi è che preferisci nel centrodestra? Chi è che, diciamo, chi è che te faresti subito, come si dice in romanesco? Guarda, non cado in queste cose perché sono felicemente sposato, ho una figlia di 26 anni, mi sembrerebbe abbastanza squadra. Di quanti anni? Mia figlia? Mia figlia, la prima 26. 26? Mazza, e quanto hai fatta? 24 anni hai fatta? Quando facevo la terza ciglia c'avevo la figlia. Mazza, oh. Ma quanti soldi hai fatto con la televisione tu? Abbastanza. No, ma sai, proprio per questo, ma se tu avessi di fronte adesso Moretti, no? Moretti, che prende 850 mila. No, non Anni Moretti. Moretti, quello delle Ferrovie dello Stato. Sì. Che cosa gli faresti? Cosa gli... Guarda, io veramente penso che quando la mattina mia figlia andava a scuola all'università e tante volte prendeva il trenino, perché noi abitiamo fuori Roma, e magari passava con una di ritardo, non arrivava mai, tutti. Adesso io vorrei dire, ma perché non te vai a abitare un attimino un po' fuori Roma e te fai due volte alla tratta, magari Civitavecchia Roma o Anzio Roma, e poi vediamo se ti pisci 800.000 euro al mese o li metti dentro questi treni. Ma come lo definisci? Tu hai definito com'è che lo definisci? Non sozzone, come tutti voi. Ragazzi, ma uno che dice che vado in Svizzera, ma secondo me sei non sozzone, cioè non puoi dire queste cose. Io ti posso dire una cosa, te lo dico con tutto il cuore. Dimmi. Io, cioè dovrebbe essere cacciato a calci nel sedere, secondo te? Dopo uno... Secondo me uno dice queste cose, sì, li merita. Io fino a ieri, fino a oggi, perché faccio ancora questo lavoro, ho fatto televisione, sono diventato famoso, popolare, ho guadagnato dei soldi, ne ho guadagnati abbastanza per stare tranquillo, grazie al popolo, grazie alla gente che mi ha sempre seguito. Oggi gente, che vedo questo stato di difficoltà, questa gente in difficoltà, Ma che dovrebbero fare? Andare sotto casa di Moretti, secondo te? Ma se andare sotto casa di Moretti, io credo che se uno lavora per un'azienda privata, come un calciatore che guadagna Buffon, per fare un esempio, o Totti, per dire, no, sembra che Dio della Juventus, che guadagna 5. Quello va bene, però lo Stato, dici tu, no? Dallo Stato non puoi, perché tu per guadagnare questi soldi mi devi portare un successo aziendale. Qui il successo delle Ferrovie dove sta? Scusa, che Freccia Rossa funziona, l'unica cosa che funziona ogni tanto se non si rompe per strada. Freccia Rossa funziona adesso. Fabrizio, scusa, dimmi una cosa, ma io dico una cosa, è vero che hai contattato Salvini? Perché tu pure sei Noè. No, io non ho contattato mai Salvini, ho semplicemente scritto a Salvini un tweet perché ma lui alcune scelte della Lega. T'ha risposto? Non sono leghista, non potrei esserlo mai, io sono di Roma, mio padre era siciliano, non posso mai essere, poi l'Italia per me è unica, una e indivisibile, però dico che la lotta che sta facendo contro l'euro secondo ma me è fondamentale per far ripartire questa economia. Ma t'ha risposto o no Salvini? Ti dico la verità? No, non ti ha risposto. Vabbè, non mi stupisco. Ma è vero che hai detto. Però ho visto, gli ho scritto perché lui mi ha seguito su un tweet quando ho scritto una cosa. Senti, ma qua quando guardi ma lui ha detto ho la nausea di Napolitano, ha detto Bracconeri. Sì, ho la nausea. Sì. Cioè, non lo sopporti proprio Napolitano. Ma la nausea vuol dire che ti fa vomitare, però, scusa. No, io dico la nausea. La nausea è prima del vomito, perdonami. Ho capito, però. Però può avere solo la nausea e non vomitare, non è che questo, voglio dire. Può avere due a Fabri. Vabbè, e quando guardi la Boldrini, il capo dello Stato comunque. E quando guardi la Boldrini in faccia? No, guarda, io ti dico la verità, la Boldrini veramente mi dà fastidio perché è troppo faziosa. Io la faziosità non l'ho mai sopportata. Quando ha praticato la tagliola, che è una cosa che non ha mai praticato nessuno in Italia, è stata lei. Poi mi accorgo quando per esempio parla Bonanni, io non lo sopporta. È lui che se Bonanno, quello è Bonanno, e ti dico, Bonanno. Ti faccio Bonanni, Meloni, La Russa, Alfano, come parla? Filena. Come parla? A me piace, per esempio, l'altro del PD che fa le... Giachetti. Ah, Giachetti, sì, Giachetti. Che è lì, Giachetti. A me piace molto. Signor Giachetti. Com'è che fa la cosa, la cantilena della Boldrini? Meloni, Bonanni, Di Battista, per favore colleghi, stiamo in silenzio. Senti una cosa, ma Berlusconi è ancora sul pezzo, eh? È ancora sul pezzo il Berlusca, no? Berlusconi è ancora sul pezzo. Berlusconi è ancora sul pezzo. Sempre sul pezzo, perché piaccia o non piaccia, non lo metto in dubbio. Certo, questa storia delle donne l'ha un po' rovinato, eh? Ma perché l'ha rovinato? Perché noi siamo invidiosi. Perché, ma chi è che non piacerebbe organizzare delle feste a casa? Chiaro, aspetta, fermati. Senza minorenni, senza. Però se uno ha la possibilità. A chi è che non piacerebbe organizzare? A casa tua fa bene 10 donne, ma perché non lo può fare? Ma ho capito, però. Ma non è così semplice la questione. Però le pagava dopo, Fabrizio. Le pagava pure, sembra, con gli stipendi. Questo sembra, non è sicuro. Beh, non è sicuro, insomma, adesso non esageriamo. Però tu dici anche se le pagava, alla fine a chi faceva male? Ma non faceva male a nessuno, forse moralmente posso criticarlo. Però, ma comunque sono tutti invidiosi, dici tu, no? Ma tutti invidiosi, forse no, forse un po'. Però molti sono invidiosi del fatto che. Io non lo farei, che ti sto a dire, io non lo farei, ma non condanno manco se uno dice io sono omosessuale, voglio fare delle feste con gli uomini, farle, ma che me ne frega, basta che non fai danni alla gente. Senti, ma quando vedi, se dovessi vedere per strada due uomini che si baciano, che reazione hai tu? Ma non ti piacciono, ma non se baciano due persone normali, perché per me due che si amano vanno bene. È chiaro che io oggi non mi metterei a fare le riforme per gli uomini sessuali subito, per gli uomini, cioè com'è le riforme per gli uomini sessuali diverse, tra virgolette, sì. Fare prima altre cose, poi è chiaro che le coppie omosessuali vadano regolarizzate, però da qui a regolarizzarle, a dire domani possono avere dei figli, io questo no. Avere perché dei figli no, magari adottare, magari adottare, diciamo, no. Ma no, adottare, guarda che quando uno fa un'adozione è come se l'avesse fatto il figlio, perché hai tutti i diritti e i doveri di un genitore. Certo. Comunque io voglio chiudere, poi ti rinviteremo se sarai candidato sicuramente. Com'è la canzone? Quella della pasta asciutta? La pasta asciutta, andate via. Ma guarda, il pezzo. Non mangio cose strane, non pratico i fast food. E il ketchup con gli hamburger li lascio a Robin Hood. Io che sto nato sotto il sole, fretta non so cosa sia. Mangio la pasta solo in buona compagnia. A presto, ciao. Innanzitutto, buongiorno a tutti e una cosa. Io so da Roma, perdonatemi. Oh. La Zanzara. La trasmissione Zanzara serve a mettere i piedi per terra alle persone che volano troppo alto, secondo me si perdono un po', insomma. Venuta nel mio spazio sotto il salice, salice. Guardate che vengo lì di pigliacarti in culo. Comoda, sull'erba butto spesso il bici, corica, corica. Non voglio farti fredda, ma troppo inizia la festa. Grillo? Signor Grillo? Ma di cosa parliamo? Ci spiega questa storia di Bersani fatto fuori da Letta? Com'è l'ambasciatore inglese, il pranzo dall'ambasciatore inglese? Come ha funzionato la storia? Ma sei un cretino, ma siamo andati dall'ambasciatore con Casaleggio, abbiamo bussato, abbiamo detto ambasciatore, Grillo, tutto in streaming abbiamo messo, abbiamo raccontato tutto, nella rete c'è tutto. Sì, ma perché ma l'ambasciatore inglese... Vabbè, l'ambasciatore d'accordo. Inglese è morto. No, veramente non è morto, è vivissimo. Un cretino, non sono neanche... sono fuori dall'euro. Lo fanno loro, lo possiamo fare anche noi. Però d'accordo, a parte questo, ma chi ha fatto fuori chi? Perché non si è capito molto bene che ruolo ha avuto l'ambasciatore inglese e... Ma nessuno, è una puttanata che ho detto io. Ci siete cascati tutti come sempre, cretini. Tu stai, Maresso, ti voglio mandare io l'ambulanza. Dimmi dove stai. Grillo contro la Boldrini non ha le sembianze da presidente della Camera. Questa persona non può gestire la Camera con le ghigliottine, questa è una persona incompetente, si vede che è incompetente, mi dispiace dirlo, andate in televisione a dire che siamo sessisti, che siamo addirittura stupratori, cose così, non ha le sembianze di un presidente della Camera, né la cultura, né l'intellettuale, né l'onestà intellettuale. No. Comunque è evidente che per avere Grillo devi un po' castrarti, dal punto di vista giornalistico. Poi, per carità, grande colpo, però devi un po' castrarti, perché uno di fronte a certe cose uno potrebbe dire: sì, vabbè, Grillo, dai, ma come si fa a dire cosa sta parlando, certo? Che l'ambasciatore inglese, oh, che l'ambasciatore inglese è dietro il complotto per far fuori Bersani e mettere al suo posto Letta, perché c'era là Letta che aspettava di fare un pranzo. Dai, su. Senti queste cose. In Ucraina sulla folla sparavano americani, sì, e poteri occulti. Questa è bellissima. Chi sparava sulla folla in Ucraina hanno capito che non erano i russi. Quindi c'erano delle forze occulte. Ci sono forze statunitensi, ci sono forze americane, ci sono forze che... Cioè, io no, non voglio dire, perché non sono in grado adesso di giudicare una situazione così complessa, ma è complessa, non è così semplice come ce la fanno apparire. Beh, se è complessa, certo, allora come fai a dire che sparavano, chiaro, gli americani ai poteri è occulti? È tutto falso, anche Aldo Moro è vivo. Ma come vivo? Mi hanno raccontato che è morto, ma è vivo, lo tengono nascosto. Ma dove lo tengono nascosto? Ma è evidente, ma non sapete nulla, perché siete dei mentitori della Confindustria. È nascosto, in via Frattina. Ma come via Frattina? In via Frattina, è lì nascosto, non è mai stato rapito. Ma no, ci sono le Abbiamo foto, le prove, ci sono i comunicati delle Brigate Rosse. Cretino, vaffanculo, ne ho parlato con Casaleggio. Ma che tutto vuol nel dire? Mio spettacolo, te la do io l'Europa. Abbiamo le foto, ma che di Moro che è vivo. Leggeva pure La Repubblica, l'avete visto? Non può essere morto. Spettacolare scontro Luxuria Giovanardi. Sentite, Luxuria Giovanardi. Giovanardi, se non hanno invitato lei, se ne faccia una ragione. Non la vogliono sentire, no, i ragazzi, no, perché un attimo, non hanno interesse, scusa, a sentire. Luxuria, mi scusi. Un attimo, Giovanardi, un attimo solo. Giovanardi, questa è violenza, ma lei è la violenza. Perché, no, perché democrazia, se fanno una assemblea con i vegetariani che lei, vogliono eliminare lei è un omofobo carne, di professione, è che in un'assemblea lei scolastica è un omofobo di mestiere, quelli che invece sostengono Giovanardi lei casa. È uno non stare lì così. Giovanardi, omofobo di professione, TG3, TG3A, Bianca Berlinguer. Sentiamo cosa ci racconta questa sera la Zarina Rossa. Ladies and gentlemen, e adesso i titoli del TG3. Cosa deve dire? All'AIA vertice dei grandi, senza la Russia, Obama minaccia sanzioni dure, propone di sospendere Mosca dal G8, appoggio all'Ucraina unita. Il crollo socialista e l'avanzata della destra alle amministrative di Francia sulle prossime europee si allunga l'ombra del voto anti-euro. Renzi, attenzione al voto di protesta, Bruxelles prende atto del senso di antipolitica, le elezioni di maggio non saranno un referendum su di me. Napolitano, le fosse ardeatine, la pace non è un regalo ma una conquista di quell'unità europea che oggi da varie parti si cerca di screditare. Il ministro Poletti, basta con la concertazione e dialogo con tutti, ma il governo alla fine decide, squinzi sostegno leale, aspettiamo le riforme. Nuova bufera su Finmeccanica, 4 arresti per fondi neri e tangenti, ai domiciliari Borgogni, perquisizioni per l'ex presidente Guarguaglini. Il governo malese annuncia il Boeing caduto nell'oceano indiano ad ovest della costa australiana, nessun superstite, l'obiettivo ora è trovare la scatola nera. La zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. Ciao, ciao, bello de casa. Capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. Ah, oh, disgraziato. Zazza, zazza. È la zanzara capricciosa. Oh, c'è Rotondi, Ma scusa, che fine ha fatto la nonnina? L'adorabile nonnina. Ma chi? Anarella, dici? Anarella, è venuta in mente, sì. Ma Anarella sta a casa a mangiare la minestrina a questa ora. Vecchietta, che fa la nonnina? Ma casa? Scusa, ma non la prendere per il culo. No, sta a casa a mangiare la minestrina. L'adorabile nonnina comunista, che fine ha fatto? Che una ballerina. È giunta l'ora di andare a letto. Ad occhi chiusi stringo il mio orsetto. Restare Rotondi e il governo ombra. Rotondi e il governo ombra. Senti questa roba eccezionale. Rotondi e il governo ombra. Il governo ombra riporterà Berlusconi alla vittoria. Sarà parlamentare, voterà la fiducia e fino ad allora magari troverà anche un posto nel governo ombra, no? Perché se vanno avanti quelli che gli danno i consigli, andremo tutti in galera, non solo lui. Se vado avanti io vinco le elezioni e riconsacro Berlusconi leader di questo paese. Chiamo io o chiami tu? Chiamo io? Subito, è già partita, eh? vi volete incazzare con qualcuno, incazzatevi con questo Germanà. Dai, risentiamo il mitico Germanà. Poi vi faccio parlare, un attimo solo, eh. Germanà, Forza Italia. Ci siamo impoveriti in famiglia a fare la politica. Germanà. Io ho parecchi in famiglia parlamentari. Allora, parecchi parlamentari in famiglia. Qua dentro c'è un mio nipote, fino a poco fa, mio padre è stato un parlamentare, mio fratello due volte al Senato, due volte alla Camera, i miei cognati senatori e deputati, sempre con le preferenze, non se lo dimentichi questo, eh. Come si chiama lei di cognome? Germanà. Voi siete una dinastia come quella di Berlusconi. Ci abbiamo rimesso. Perché? Perché non ci siamo arricchiti con la politica. Vede che al parlamentare non resta nulla alla fine del mese, eh. Ci siamo impoveriti noi. Ci siamo impoveriti. Valentino da Lecco, buonasera, Valentino. Ciao ragazzi, dimmi. Volevo farmi quattro risate perché ogni volta che sento Parenzo parlare di Grillo o del movimento c'è sempre quella bella nota ironica che non tiene conto che viviamo nel paese dell'ironia più assurda su tutti i fronti. Cioè sentiamo questa persona, questo Germanà, dire delle cose del genere e poi ci stupiamo della importanza che un ambasciatore possa dare ad un personaggio che ormai di fatto è un politico come Beppe Grillo, oppure sulle sue dichiarazioni. Cioè viviamo nel paese delle comiche, però ci attacchiamo, ci appelliamo al fatto che Grillo non sia un interlocutore attendibile. Ma io non ho detto che non è un interlocutore attendibile. Io ho detto che sulla storia dell'ambasciatore inglese e del complotto contro Bersani a favore di Letta ha detto una puttanata. Ma basta, è una punto. Cosa così assurda quella di immaginare abbastanza. Che ad un pranzo, cioè, cioè che l'ambasciatore inglese complotta per far diventare presidente del Consiglio Letta al posto di Bersani, ma se dico, ma se per complottare si intende dai, invitare ad un pranzo il futuro, il ma futuro il futuro che quello è ma il vicepresidente rappresenta una forza politica importante come il Movimento 5 Stelle, io non ci vedo veramente niente di strano, ricordiamoci siamo in Italia, ho capito, ma non l'ho detto io, in Italia si fanno lui ha detto ho le prove San Martino, lui ha detto, ma lei ha sentito cosa ha detto, lui ha detto ho le prove del fatto che hanno fregato Bersani a favore di Letta. E la prova è un pranzo organizzato dove c'era pure lui con Letta dietro la porta all'ambasciata inglese. Ma di che parliamo? Avere ragazzi, le prove dai, su. Può voler dire che l'ambasciatore si è espresso, diciamo, con una modalità che non è stata esattamente quella che Grillo ha descritto nell'intervista di Mentana, ma lui non voleva semplicemente riportare per filo e per segno le parole. Se lei vuole credere al fatto che tutto è un complotto e che dietro. Ma non è questione di tutto complotto, ragazzi. Questo è quello che le fa credere Grillo che è tutto un complotto. Le trattative si fanno al Nazareno a porte chiuse piuttosto che a Villa San Martino con i sindacati ospiti. Cioè, ci ricordiamo queste cose qui o facciamo finta di credere di essere veramente in un paese normale? Ma questo che vuol dire? Vuol dire che un complotto, cioè avere le prove di un complotto può voler dire benissimo che l'ambasciatore si è espresso. Poi che cosa vuole dire? Al di là di questo, cosa vuole dire? Voglio dire esattamente che se l'ambasciatore si è espresso forzando su una posizione che Grillo magari non ha voluto ripetere, è possibilissimo che ci sia. Se lei vuole credere al complotto, se le piace così. Se le piace così, no, io credo benissimo che il Partito Democratico sia in grado di mandare Bersani al macello e di avere già pronto il signorino che è lì per sostituirlo. Va bene, Giovanni da Milano, grazie Valentino. Giovanni da Milano. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Volevo dire solo una cosa. Lei è favorevole a dire che i bambini vengono adottati da coppie gay? Sì. Sì. Lei sa in che modo... Lei sa cosa? Io le voglio raccontare una cosa sola. Mi racconti. Io quando andavo a scuola io... Sì. Avevo 6 anni. Sì. Mia madre ne aveva 48 perché ne aveva avuto quando ha avuto... Vabbè, quando allora... di 40 anni. E allora non si tingevano i capelli e tutti i bambini dicono la verità, che vecchia che qua che là, quando manderà a scuola un bambino allevato su da coppia gay vedrà che casino che salta fuori quel bambino. Ci sono lì già adesso me lo spiega qual è il casino che salta fuori, un attimo, adesso me lo spiega, resti lì, resti. guarda un po' quello lì che va con il papà e la mamma, sono due gay, sai cosa succede a scuola? Che succede? Succede? Cosa succede? La puoi immaginare? Che ne so, me lo dica lei. Quello deve succedere, che tutti lo prendono in giro. Per il grande ragionamento, Giovanni da Milano, tra poco. La zanzara. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma che ti questa roba qua? Ti piace così? Va bene. E dormi in un tombino. L'agna del letto che mi graffia tutto, cosa ti devo fare? Ti fa politica unita contro Moretti, che dice che se ne vuole andare se gli abbassano lo stipendio da 850.000 euro. Lupi, ministro dei trasporti, all'attacco. Ovviamente un argomento molto popolare, un argomento demagogico, no? Dunque i politici dicono sì, tagliatevi lo stipendio, poi invece di tagliare i loro di stipendi ci mettono anni, anni quando li tagliano. Questo è vero, ma una cosa non esclude l'altra però. Lupi, guadagnare 60.000 euro al mese non è poco, se gratis meglio, non so a chi si riferisse, Lupi, Lupi, ma adesso lo sentiamo. Se guadagnare 60.000 euro al mese non mi sembra poco, no? Sei pronto a lavorare gratis? Io credo che sono molto contento. Salvini, Moretti, vattene per dignità. Vai avanti tu. Ma dimettiti, Moretti. Se hai un minimo di dignità, domani ti dimetti. Uno che piglia 850.000 euro al mese e mette in dubbio il fatto che se gli tolgono 10 euro se ne va, ma vattene. Ma vattene, ma per dignità. Beh, qui però c'è da dire. Ma diciamo, se uno si mette contro il governo, se uno ha un contrasto forte con il governo, col presidente del Consiglio, da cui in sostanza poi dipende. Beh, alla fine uno prende anche le sue decisioni, no? Gli amici della Lega, fino a quando non viene chiarito in Regione Lombardia la questione di infrastrutture lombarde, diciamo, non è che possono parlare molto di stipendi dei manager pubblici, diciamo. Nel passato manager leghisti hanno preso un sacco di quattrini. Dai, appunto, su. Dai. Ma che mondo è questo? Ma che mondo? In Francia, per dire che l'hai fatta grossa, aggiungono alla Berlusconi e poi dicono che il Made in Italy è in crisi, scrive Giulia Innocenzi, collaboratrice di Santoro. Risponde subito, come dire, un Gasparri scatenato su Twitter. Senti come ha risposto. In Italia, per dire una trasmissione in declino, dicono alla Santoro o di una persona bocciata agli esami, alla Innocenzi. Terribile, dai. Gasparri non si fa scappare nulla su Twitter, nulla. Dentro il mio giardino ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. Duello Sandro Gozzi, Mario Giordano, Matrix. Che mi graffia tutto. Cosa ti ma dove noi abbiamo una lo scrivevo in cui dal 2001 al 2006 sono stati fatti dei tagli lineari e intanto la spesa sociale diminuiva, le famiglie soffrivano di più. Lei viene qua, scopre il governo Renzi e dà lezioni e dà delle lezioni, quindi non so, voglio dire, rimettiamo le cose in prospettiva, rimettiamo le cose in prospettiva. Allora però scusate perché è troppo. Che a un certo punto Gozzi, che è sottosegretario per i rapporti col Parlamento europeo, con gli affari europei, mettetela come vi pare, ha detto: dov'eri con Tremonti? Dov'eri con Tremonti? A Mario Giordano, che è autore del libro sull'euro, direttore del TG4, lui ha detto: leggi, studi, studia. 20 anni. Vabbè, dai, Andrea da Milano, su, Andrea. Sì. Dimmi. Senti. Sì. Ciao, ascolta, volevo tirare l'orecchio ai signori del Veneto che adesso stanno cavalcando. Sì, però adesso togli quell'auricolare maledetto, togligli dal viva voce, dai. Forza, Andrea. Sì, ascolta, ciao. Niente, volevo tirare l'orecchio ai signori del Veneto che stanno cavalcando l'onda della Crimea, che parlano di secessione. Però prima si facciano un bel esame di coscienza quei signori. Ma signori chi? Quali signori? 2 milioni di persone. Due milioni di persone. Vabbè, dai. Ricordiamoci che adesso sta cadendo il centennale della prima guerra mondiale. Centenale, e che ci restituisci quei 2 milioni di morti su quelle montagne, che c'era pure mio nonno. Volevo dire solo questo, Cruciani. Non li faccio parlare a quelli. E parla uno che sembra buttato Lega. Va bene, grazie. Raffaele dalla provincia di Ancona, dai, Raffaele. Non devono parlare quelli che vogliono l'indipendenza del Veneto, invece noi li facciamo parlare lo stesso. Raffaele, dimmi. Cruciani, buonasera, mi senti? Sì, dimmi Raffaele, dimmi. Allora, la situazione è questa, io volevo dire, volevi dire per il caso di Moretti, no? Sì. Allora, io a questo signore qua lo vorrei portare un attimino nello stabilimento dove le donne lavorano 10 ore a togliere le budelle dal culo delle galline. No, non ho capito. Per 900 euro al mese. Ma che stabilimento è questo qua, scusa? Spasciano le galline. Spasciano le galline. Sì. lo stabilimento dove sfasciano le galline. Ma io lo so. Eh sì, non voglio fare nomi per non fare pubblicità. Ma, no, che vuol dire? Va benissimo tutto, ma che vuol dire sfasciano le galline? Cioè, scusi, prendono signora. Le galline per fare le... Allora, prendono le galline. Parenzo, lei mi deve dire dove si è laureato. No, ma c'entra, non c'entra quello, voglio capire dove sfasciano. È interessante la questione, mi interessa veramente. Magari il signor Barisoni ci fa anche un focus su quello. Ma sfasciano le galline in che senso? Allora, nel senso che dividono le anche dalle putella, eccetera, eccetera. Ma perché Moretti dovrebbe andare a fare una visita in questo stabilimento? Scusi, non si capisce perché deve capire cosa significa guadagnare 900 euro per 10 ore a togliere i putelle dalle culle delle galline. Aridaglie, aridaglie, questo è importante. Cioè, allora, Moretti, per imparare come si vive, come si guadagna poco invece di 850.000 euro, dovrebbe far visita a questo prezioso stabilimento dove una signora, evidentemente delle signore, degli operai, tirano fuori le budella dalle galline, giusto? Altro che giocare con i trenini, dice lui. Esatto, sì, sì. Esatto, vedi, esatto, che ho capito, esatto. Poi, ho capito tutto, poi voglio dire che se lui se ne vuole andare via, sì, che andasse via, io lì al posto suo ci metto una massaia. Una massaia, certo, magari sua moglie, sì, che ne so, sua moglie, va bene, sua moglie. Sì, anche mia moglie, tranquillamente, sua moglie, perché no? Le massaie sono più brave di lui, sono più brave Italia a far funzionare i treni, sanno fare quadrare i conti risparmiando. Sì, questo non c'è dubbio, questo è vero. Esatto, questo signore qua, questo signore qua Moretti prende lo stipendio che dobbiamo pagare noi, che già siamo rovinati. Sì. E allora? E allora 240.000 euro all'anno. Scusi, ma chi è che tira fuori bene? Ma chi è che tira fuori le viscere dalle galline? Sua moglie? No, no, mia moglie no. E chi è che lo fa? E sanno dei miei parenti che lavorano in questi stabilimenti. Ma che stabilimenti sono questi qua? Dove si trovano? Stabilimenti dell'AIA. Ah, dell'AIA, quella l'azienda che fa i polli, eccetera, eccetera. No? Esatto, qui a Bologna. Qua ma che fanno? Tirano fuori le budella dalle galline. Le budella dal culo della gallina. Beh, poi adesso in particolare è interessante. La mettono sul gancio che poi c'è la catena, no? Sì, la catena, vabbè, fanno gli operai in, una, in un'azienda. Vabbè, ma guardate che lo fanno anche in Germania, Ma sì, in Germania lo fanno. Certo. Vanno a lavorare in Germania, sbudellano i maiali per 5 euro l'ora. Ma in Germania lo fanno. Anche la Merkel l'ha fatto, evidente. Ha sbudellato l'Europa o sbudellato le galline, è chiaro. E allora che mi venite a parlare a me? Beh, infatti è lei che sta parlando, non è che noi veniamo a parlare a lei. No, perché io ce l'ho anche con lei, Cruciani, perché? E con Parenzo. Perché voi, anche voi siete super stipendiati. Super stipendiati, vabbè, super, prendiamo qualche quattrino, sicuramente prendiamo qualche soldo, allora? Ecco perché anche proteggete questo Moretti. Anche noi dobbiamo tirare il culo alle galline, scusi, no, per curiosità. No, io vi vorrei far vedere anche a voi. Se vuole possiamo anche provare. Sì. Pulendo il culo le galline. Dal culo delle galline. Aridaglie. Potremmo culo fare una diretta della radio da lì. È che come non si vede, pulisce però... il culo delle galline? Ma evviva la gallina! Questo è importante. No, però. Beh, no, quando... è morta. Aspetta, la gallina. No, scusa. No, quando viene. Allora, la gallina è morta. Per farvi capire a voi. Aspetta, però è importante. Sì, è importante, sì. Sì. La gallina è quando morta. Entra nell'allevamento, no? No, è viva. La prendono. Che succede? Ma è viva, però. Gli taggono il collo. Dunque è morta quando arriva, quando uno la pulisce il culo, è morta. Sì, poi dopo viene spennata, no? Sì, e che ne so, io mi l'ho fatto, questo non lo farei mai. Sì, e glielo sto spiegando io perché io l'ho visto. Lei l'ha visto. Io so la sofferenza delle persone. Ma e le anche persone, delle galline. Spennano le galline, no? Ma anche la gallina proverà sofferenza. Non è felicissima, quello diciamo. Quello indubbiamente, però la gallina è morta, invece noi siamo in agonia. Bah, vabbè, adesso questa è una bella metafora. Grazie, dice, grazie. La gallina tanto ormai è morta. Anche questo è la zanza, la zanza, la zanza. Vincenzo La Spezia, buonasera Vincenzo. Siete tremendi, guarda, sentire il dialogo che ha fatto quello della gallina, siete fantastici. Vabbè, allora dica. No, senti, molto semplicemente questo. Sai che riesco dopo, io sono un manager, ex manager, riesco ex a andare insieme. Sì. Riesco ad andare a cena con una donna grazie agli 83 euro che mi darà il grande amico Renzi. Bah, veramente sì, ma è una cena così, diciamo. No, una cena... non sto scherzando, no, veramente. Se ma non che è... va a cena con 80 euro in due dove va? Fammi finire. Dove va a cena con 80 euro? Se non vedente si riesce anche a trombare. Sì? Se è non vedente si riesce anche a trombare. Cioè, la donna, dice lei. La donna, dice lei. Vabbè, senti, ha offeso i non vedenti. No, l'ho promesso, certo. Beh, lo dice uno senza offendere nessuno, però so definire la mignota. No, non ha offeso, mancherebbe altro. Vabbè, allora lei ho dice. Ho avuto una zia non vedente in casa, quindi. Lei dice, so cosa vuol dire. Sono con te. Ti volevo dire questo, perché sinceramente, oggi come oggi, io vivo in Civa un Monte, ho la fortuna di sentire la vostra trasmissione, basta, allora? La televisione. Con gli 83 anni, non lo sto scherzando, riesco veramente ad andare a cena, perché oggi come oggi veramente... Con ma se lei non lavora più, lei questi soldi non ce li avrà? No, io lavoro ancora, ma prendo 1200 euro. Cui ad hoc per lei, 450 euro d'affitto, 500 euro per mangiare, lascia stare le bollette. L'unica possibilità che ho per invitare una donna a cena è... sono gli 80 euro di Renzi. Non è uno scherzo, te lo dico. Allora lei diventerà un elettore di Renzi per quello. Dai, Fabio Darieti, grazie Fabio. Fabio? Sì, dimmi. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Ciao, ciao. Salve Fabio. Allora, senti, una cosa per quanto riguarda Moretti. Io ho lavorato 10 anni in Germania. Vorrei farti capire un attimino, caro Giuseppe. Tu dicevi che prende 3 volte tanto il... Sì, diciamo che ha un budget superiore, no? Le ferrovie tedesche. Vorrei farti capire una cosa soltanto. In Germania, una volta a settimana, i treni vengono sterilizzati, non puliti, sterilizzati. E allora? In Italia, se tu vai nei treni italiani, fanno letteralmente schifo. Dipende quali treni, ovviamente. Fanno letteralmente schifo. Dipende quali treni. Una persona non può prendere 850.000 euro su una società statale che è in default. No, in default non è in default, non è vero che è così, non è vero, non è affatto in default, anzi da quando c'è Moretti i conti sono migliorati, ma a me non me ne frega niente di fare il difensore di Moretti, una persona che guadagna 850.000 euro al mese, probabilmente la sua uscita è stata improvvida, è una persona scontrosa, ma il principio è giusto, se uno amministra una grande società, ancorché pubblica, deve essere remunerato secondo quelli che sono i prezzi di mercato, altrimenti trovate un altro manager a 200. Sì, ma è un diritto della politica metterlo in discussione, visto che si dice che la politica non conta mai un cazzo. Ma una volta che la politica decide una cosa, ma è chiaro, Della Valle ha i suoi interessi, ha i suoi trenini. Ma questo lo sanno, diciamolo, anche i Sassi, no, lui e il signor Cordero di Monte hanno i trenini. Ecco, Della Valle che se ne esce dicendo è ora di alzare il velo sulle ferrovie dello Stato e su Moretti. Ma per è ovvio che ha un altro interesse. Lui ha detto lui che i viaggiatori sono pronti ad accompagnarlo alla porta, deve avere il coraggio e l'identità di andarsene. Ma il tema non è Della Valle, E qual è il tema? Il tema è la politica, che per una volta che può decidere una cosa, come ha deciso quegli stipendi, può decidere di metterci un tetto. E poi lui è libero di andare in Germania. Ma hanno già messo un tetto una volta, 3 volte solamente due si sono adeguati al tetto. Gli altri restano tutti sopra il milione di euro. Pensassero a tagliare altri enti inutili e pensassero questo a tagliare altri questo stipendi inutili. Non quello di Moretti, che forse è il più utile di tutti. Dai! Con noi, buonasera. Oh. Buonasera. Caro giusto. Vittorio, come andiamo? È un trionfo. Appoggiamo il signor Moretti, ha ragione lui oppure ha detto una parolina? Ha ragione Moretti, ha ragione, perché è un signor manager che deve essere pagato in base ai risultati che ha ottenuto. Se i risultati ottenuti sono buoni come in effetti risulta, va remunerato, altrimenti viene cacciato. Come si caccia chiunque non è in grado di fare il suo mestiere. E perché Della Valle dice che è il caso di mandarlo Della Valle via? Della Valle è un concorrente di Moretti, avendo Italicus, un treno modesto. Italo, sì. Sul quale Italicus fece una brutta fine. Italicus, Italicus fece una brutta fine, direttore. Lapsus del direttore. Un po' confuso, diciamo. La strage. È ovvio che Della Valle ce l'abbia con Moretti, che gli fotte i clienti. Basta, fine, lo sappiamo. Non è che ci vuole. Ma basta poi con sto pauperismo che 850.000 euro uno viene visto come una sorta di... Ma poi 850.000 euro che sono lordi, diventano... al netto sono 430, 440, quindi è un buon stipendio. Sono 40.000 al mese. È lo stipendio del presidente, dell'amministratore delegato delle ferrovie dello Stato. non di un'aziendina di, che fattura 20 milioni l'anno. Poi oh, se trovano qualcuno a 300-400 mila, pigliassero qualcuno a 300-400 mila, che vi devo dire? Cioè... Sì, ma non è che cambia molto, cioè i risultati delle Ferrovie dello Stato, se sono buoni, meritano anche un manager che ne guadagni addirittura un milione e mezzo. Poi certo, lui non è stato un genio della comunicazione. Sono discorsi, questi qui sono discorsi, diciamo così, ideologici, non sono discorsi pratici, perché il mercato è il mercato, lo si sa, chi guadagna tanto di solito è perché produce tanto. Lo scandalo sono altri manager pubblici che di enti assurdi, impensabili. Gli enti inutili, ce ne sono tantissimi. Che prendono 200-300 mila, eccetera. Per esempio le authority, sì. Ce ne sono tantissimi. La maggior parte non servono un cazzo, io se dico. Non servono niente, ma prendersela con Moretti è veramente ridicolo. Allora, però parliamo della questione della famiglia Berlusconi, o comunque della vicenda che riguardano Berlusconi, perché insomma, qui pare tutto bloccato, no, Vittorio? Come se ne esce da questa vicenda? Cioè, Berlusconi, sappiamo che non si può candidare. Pare che ci sia una guerra interna tra i figli. Marina non vuole che si candida Barbara. Barbara è tentata. La vecchia guardia del partito non vuole nessuno dei Berlusconi, però si vogliono candidare tutti. La Pascale che fa interviste sulla politica. Qual è il tuo suggerimento? Ma io penso che Berlusconi a questo punto dovrebbe candidare tutti i suoi 5 figli. Beh, come dico io? Si chiamano tutti, infatti tu hai perfettamente ragione, 5 figli che si chiamano ovviamente tutti Berlusconi. Sì. Li candida tutti, poi non è detto che devono andare in Europa a rompersi le scatole a Strasburgo e a Bruxelles, anche perché non saprebbero cosa fare, suppongo. Beh, no, credo. Però dal punto di vista elettorale avere 5 Berlusconi in lista potrebbe essere un vantaggio per Forza Italia, siccome qui si tratta di raccattare dei voti. Se tu candidi tutti e 5 i figli, quel nome gira alla grande e può portare a casa molti voti. Io farei questo, ma ormai a questo punto Forza Italia non è un partito, è un clan, è un clan familiare, eccetera. E allora spingiamo questo concetto fino all'eccesso e candidiamo tutti i figli di Berlusconi e vediamo cosa succede. D'altra parte, questo modo, secondo me, magari dici? No, magari arrivano tanti voti. No, certo, questo modo non è neanche difficile, perché uno basta che scriva Berlusconi, che scrive il nome di battesimo, basta scrivere Berlusconi, sì, anche sulla scheda, risparmia poi... anche sui santini da un certo punto di certo, vista, no? Risparmia molto, perché tutti si chiamano Berlusconi, poi ci sono tanti, Pierluigi, Barbara, Leonora, Pier Silvio, veramente, Marina, Pier Silvio, tu li metti dentro tutti, sì, sì. E vediamo cosa succede, insomma, potrebbe anche essere divertente, ma pensa quanti Berlusconi, si pensava che morto un Berlusconi, morto si fa per dire, non si potesse più fare niente, invece ne spuntano 5. Pensa che meraviglia, pensa che liste meravigliose, vabbè, lo faccia, ma tanto ormai non c'è più niente di serio nella politica italiana. No, ma perché me non mi direte che Renzi è un esempio di serietà, anche no. Lui fa le sue cose strane e le faccia anche Berlusconi, ne ha fatte solo di strane nella sua vita. No, ma questa cosa sarebbe anche una grande provocazione, secondo me, cioè i giudici non mi vogliono far candidare, io me ne metto 5 di Berlusconi, beccatevi 5 Berlusconi. Beccatevi tutti e 5. Che non dicono nulla durante la campagna elettorale, zitti e muti. La tua idea è assolutamente da sposare e da mettere in pratica, non ci sono dubbi. Tanti Berlusconi, tanti voti, vediamo cosa succede. Tanto peggio di così non può andare. Senti, ma secondo te invece i boss che vogliono candidarsi e su cui ci sono dei dubbi, che ne so, Fitto per esempio, Scajola e altri, dovrebbero candidarsi? Perché a me pareva... No, certo che si devono candidare. Quelli che portano i voti vanno candidati tutti. Chi porta voti è come Moretti, no? Moretti porta risultati, tu lo tieni lì. Fitto porta voti, lo tieni. Scajola, a me non è che sia simpaticissimo Scajola. Da tempo, della casa, eccetera, che non mi ha mai convinto del tutto, però se porta voti avanti Scajola, avanti Fitto. Beh, ma ha ragione, avanti il direttore Verdini, avanti tutti, avanti. Tanto che si tratta di fare? Perché Toti voti mi sa che Toti chi, scusa? Toti, no, Toti, l'ex direttore del TG4, il consigliere politico di Berlusconi. Consigliere politico, no, di Berlusconi. Toti è bravo, eh. È no, bravo. No, non scherziamo. Toti è bravissimo. Bah. Teniamolo in lista. Vediamo, vediamo, perché magari sai, Toti. Cioè, Toti. Toti voti non ne ha, eh. Vabbè, vediamo. Sembra, io lo metterei. Sì, certo, lo metteresti, no, perché Berlusconi vuole che, sì, che prenda dei voti. Tanto funziona. Io ho qualche dubbio sulla Pascale. Io non la conosco personalmente. Ah, ecco, adesso parliamo della Pascale tra poco, dopo la pubblicità. Io metterei Dudu. Ah, invece della Pascale. Lui... No, ma Dudu, guarda che prenderebbe un sacco di voti. Chiunque, ho scritto Dudu. Dudu. Dudu. Dudu, Dudu, beh, è uno che i voti secondo me li porta. Detto tutti gli Dudu. Animalisti, tutti quelli come me che amano i cani, i gatti, le lepri. Tu le lo voteresti, Dudu? Dudu subito. Subito, pure io, Dudu. Perché non si candida Dudu? Adesso, perché... No, scherziamo, Dudu. No, no. No, ma guarda che ti assicuro, l'ha detto pure chi è che non l'ha detto una volta. Dudu in lista, va bene, parliamo tra poco. La Zanzara. Valenzo, una suora che canta con tutto questo successo strepitoso non si era mai sentita, eh? Suor Cristina, scoperta da Claudia Cole, l'ex attrice di Tinto Brass, ormai convertita. Beh, vabbè, passato della signora. Cioè, ormai convertita, noto, noto, ormai convertita. Noto. Però bella, no, questa idea della suora che canta, molto popolare, no? Una chiesa. Che ne so, è popolare. Beh, mi pare di sì. È cliccata da 20 milioni di persone, da più di 20 milioni di persone, che è 25, ha raggiunto 25 milioni di click, cosa pazzesca, star americane, gente scatenata. Che la salvezza della Chiesa sia affidata a Suor Cristina e a Papa Francesco, che dici? Anche. Siamo qui con Vittorio Feltri, direttore del giornale, ex direttore del giornale in realtà, editorialista, ex direttore, no, insomma, per carità, l'amore di Dio, mai la vera più, mente, mai la più. Mente, è la mente. Senti, occulta. Ma dimmi, dimmi. Parenzo, scusa Giuseppe, ma Parenzo ha un tetto alla sua retribuzione? Purtroppo, per fortuna. No, non ha un tetto. No, diciamo. Tetto. Non ha tetto. Non ha tetto. Qui è privato. Allora, se non ha il tetto lui, perché lo deve... Moretti, diciamo, le cifre... Anche questo le non cifre, è sbagliato, le sono cifre. Un po' diverse. Credo che il calcolo beh, che ho fatto... Che... Non è che firmi contratti come Moretti da centinaia e centinaia di milioni no, di... No, diciamo la verità, non firmi contratti del abbiamo milioni. Anche responsabilità diverse. Molto diciamo. Diverse, molto diverse. Però ma diciamo che quello che... pagate voi per stare in trasmissione? Lo paghiamo, sì, direi, lo paghiamo. Direi. Ma Feltri guadagna più o meno di Moretti? Meno. Come? Io guadagno di più di Moretti, ci mancherebbe altro. Più di Moretti? Certo, come più di Moretti? Cioè all'anno guadagni più di Moretti? Eh sì, altrimenti ma non ti vergogni un po'? Difendere Moretti. Non ti vergogni un po' di guadagnare come Moretti? No, anzi, sono molto contento e sono convinto che tutti dovrebbero puntare a guadagnare di più, non a far guadagnare di meno gli altri. A me non me ne frega niente se Moretti guadagna 800 milioni, va benissimo. Purché faccia bene il suo mestiere, dici? Faccia bene il suo mestiere. Io che ritengo di fare decentemente il mio, voglio anch'io la mia retribuzione. Cioè tutti quelli che si accaniscono online. Quello è che me l'hanno data fino adesso, capisci la cosa? Cioè la cosa clamorosa è che ti hanno dato tutti questi soldi, dici? Ma è andati, io li tengo, cosa dovrei fare, scusa? No, per carità, sto dicendo che tutti quelli che si accaniscono contro Moretti dicendo una vergogna, cioè alla fine sono tutti invidiosi, perché questa è la realtà. Certo, ma è l'invidia sociale. Qui c'è qualcosa di ideologico, non di tecnico, perché tecnicamente si sa che il mercato attribuisce a chiunque ottenga dei risultati una retribuzione, altrimenti non c'è niente da fare. Moretti ha raggiunto degli obiettivi importanti, è giusto che guadagni. Altri che non hanno raggiunto gli obiettivi dovrebbero andare a casa, invece stanno lì. Allora, l'Italia, in media, gli stipendi annui degli alti dirigenti pubblici, l'Italia è fra i paesi che paga di più i dirigenti pubblici, 481.000 euro rotti, più della Gran Bretagna, più degli Stati Uniti, più della Francia, più del Giappone, più della Germania, più della Svezia, più dell'Austria, più della Spagna. Questo non significa nulla. Non è che uno può... sono gli altri che dovrebbero guadagnare di meno, non chi dipende come fanno, però. Dai, su. Ma dipende come lavorano. Esatto, Cruciani ha azzeccato anche Piccolo problemino, cari amici miei, che fino ad oggi però questi dirigenti non hanno fatto un cazzo, anzi non, allora non Moretti, a casa. Quelli del passato mandateli hanno fatto molto casa. Poco. Se e anche non meno. Rendono, mandateli a casa, licenziati. La vera spesa sono quelli inamovibili che continuano a guadagnare 200-300 mila, inamovibili, dirigenti pubblici inamovibili. Vabbè, torniamo a parlare della Pascale. Secondo te è normale che una come la Pascale, che per carità è la fidanzata di Berlusconi, va rispettata in quanto donna, eccetera, faccia interviste politiche dicendo quel dirigente va bene, quel dirigente va male, Forza Italia senza Berlusconi è morta e Marina Berlusconi in campo, è normale o no? No, dimmi la verità. No, non capisco a che titolo parli, perché non ha un ruolo, non è una dirigente di Forza Italia, ha solo questa funzione di fidanzata, mi sembra però insomma che non basti per dettare legge in un partito che per quanto anomalo, insomma, è pur sempre un partito, laddove dovrebbero svettare coloro i quali hanno la possibilità di portare dei voti e la possibilità di dare un indirizzo al partito. Molti sono incazzati, lo sappiamo. Io ho parlato con diversi dirigenti di Forza Italia che non vogliono parlare in pubblico, ma si dicono incazzati neri. Finora hanno parlato solo Martino, Urbani. Ma guarda, io non ho niente con la Pascale, però non capisco quale ruolo stia ricoprendo. Se è solo quello della fidanzata, mi sembra riduttivo rispetto agli obiettivi che si propone. Io direi alla signora Pascale di stare un po' tranquilla, insomma, stia lì, faccia la fidanzata, qualche lira arriva, no? Ma cosa vuoi che tutto il qualche giorno lira arriva, ma sta lì tutto, ma anche lei proprio tutto il giorno con sto Dudù lì a casa, il signor Vabbè, il ma marito. Le persone sono megalomani, però, pensa, no, però no. Tu Parenzo, se non mi dici che tetto hai, non non ho tetti io, purtroppo. È morto di fame. Parenzo guadagna sui 100.000 l'anno, è morto di fame. Un po' di più, magari, però. Disastro. Ma come disastro? Capito? No, non so, non so due spicci proprio. Passa da me che ti do qualcosa. Oh, beh, bene. Senti, però, questa Pascale, se tu fossi un dirigente di Forza Italia, sì, che cosa faresti? Saresti incazzato come una bestia con che ne so, un Verdini, un Fitto. Ma che faresti? Uno che vede un'intervista. Fitto è uno che porta i voti. Vede un'intervista su Repubblica in cui Verdini è uno che sa governare, sa muoversi nel mondo delle liste, non possiamo sottovalutare. Sì. Dopodiché non so se abbia dei problemi con la giustizia, sono altre cose. Però insomma la dottoressa Pascale dovrebbe starsene un po' tranquilla, insomma. Pensare si più a Dudu. Contenti di fare la fidanzata, non è un ruolo secondario. No, ma soprattutto voglio dire, è anche ben probabilmente avrà un sacco di vantaggi, no, da questo ruolo di fidanzata. C'è anche Dudu. Che poi è Dudu, Non offendere il cane che è Dudu, con l'accento sulla U, Dudu. Questa è la pronuncia esatta, così dicono. Ma secondo te si è formato un cerchio magico intorno a Berlusconi come ai tempi, sì, no? Non c'è dubbio, come secondo me ormai Berlusconi è ridotto un po' come Bossi. Vi ricordate quando aveva il cerchio magico, eccetera, che fece anche una brutta fine? Io spero che non ci siano delle analogie. Speriamo tra la no, situazione di Bossi e di Berlusconi. Però il sospetto c'è, perché adesso Berlusconi vive praticamente in ostaggio. Recluso in casa, ostaggio del cerchio magico, e questa cosa non credo che giovi né a Berlusconi né al partito. Ma è una specie Berlusconi, di Rosmauro, allora. Sappiamo che ha dei problemi anche giudiziari, così dicono. Dicono. Però insomma dovrebbe cercare di essere più autonomo, non dare l'impressione di essere ostaggio di alcune signore che lo tengono lì ad Arcore o a Palazzo Grazioli in una situazione quasi di selvaggio. Ecco, questo mi dispiace. Ma scusa, ma chi è la Rosi Mauro in questo caso? Chi è la Rosi Mauro di Berlusconi? Lì la Rossi, la Rossi. Cioè, a me la signora Rossi è simpatica. Io ho anche un... Perché a te ti piacciono quelle un po' poppute, diciamo? No, no, non tanto quelle. Non è l'aspetto fisico, dici? Per le tette, sono per il lato B, diciamo. Sei più per il lato B che per il lato... Dal punto di vista del gusto mio personale, ma questo... Per carità, non c'entra nulla. Per l'amor di Dio. Però la signora Rossi a me è anche simpatica. Ma io non l'ho mai sentita. Non ho conosciuto mai la signora Pasquale. Non è questo il punto. È che Berlusconi, essendo Berlusconi, dovrebbe essere, diciamo, distaccato da questi cerchi magici, da queste cose un po' assurde. Ma era meglio quando stava con le Olgettine, era più decideva con le Olgettine era una meraviglia, perché, scusa, ma chi di noi non ha invidiato Berlusconi con un condominio pieno di ragazze a sua disposizione? Bellissime, poi, bellissime. Bellissime. Cioè, io, cioè, meglio le Olgettine, io non riesco a condannarlo, ma lo invidio. Ma scusa, meglio le Olgettine della Pascale di cosa? Della Pascale. Vabbè, dai, le Olgettine erano della Pascale della Rossi, cioè meglio essere prigioniero delle Olgettine che essere... Ma non c'è dubbio. Dai, probabilmente costavano anche meno. Ma sì. Tu dici rispetto alla Pascale. Secondo me sì. 2005 al mese, non so, i regalini eccetera, alla fine costeranno meno della Pascale. Vabbè, le fidanzate costano sempre di più, le fidanzate. Costeranno meno della Pascale, te lo dico io. Il nostro sogno è avere un condominio di Olgettine. Beh, sì, anche il tuo, Parenzo, dì la verità. Sì, sì, sì, ma sì. Parenzo è il primo ad avere questa ambizione. Solo che non vuole dirlo. Solo che non lo vuole dire. È proprio un condominio, perché Parenzo fa troppo. Perché è religioso, Parenzo. Noi che non siamo religiosi lo diciamo apertamente. Lui, essendo religioso, non lo dice, ma lo pensa come noi. Sì, lo pensa. È un suo sogno, però ormai l'ha riposto nel cassetto. È un sogno. Io invece lo pratico. Io lo pratico. Lo so, perché si sa che Cruciani ha una schiera foltissima di signorine che si intrattengono con lui. Beh, adesso. Ed è l'unica cosa che ti invidio. Perché io, avendo una certa età, non ho più neanche un parco macchine. Ma scusa, alla fine come va a finire? Berlusconi, secondo te, gli danno i servizi sociali? No. Io non credo che daranno i servizi sociali a... Cioè gli danno i domiciliari? Perché Berlusconi non si è ravveduto, non ha accettato la condanna. Sarà difficile che i magistrati che conosciamo, che sono quelli che dovranno decidere, avranno così la bontà d'animo di concederglieli. Gli daranno gli arresti domiciliari. Da me sono domiciliari, non potrà parlare. No, così lo dico... Cioè, un ragionamento, non... No, no, certo. Io non ho niente con Berlusconi. E peraltro sarà la fortuna della Pascale, secondo me. Cioè, verranno accolti dalla Pascale con grande sollievo. La Pascale sarà felicissima perché avrà Berlusconi a sua completa disposizione. Ah, con gli arresti domiciliari, certo. Vabbè. Possiamo, comunque, guarda, sono tempi duri. Adesso non esageriamo, tempi duri. Non tanto per noi. No, per carità. per tutti questi che si arrabbattano intorno a queste cose qua, noi ce ne fottiamo. Che ce ne frega niente. Ma no, nulla, nulla. Nulla, zero. Vabbè, a presto Vittorio, ciao, ti abbraccio. Grazie, ciao. Un abbraccio a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Comando e a Parenzo. Ma la suora l'hai sentita? Diamogli un tetto. Sì, ma già è stato dato un tetto. Ha sforato quel tetto e dunque alla fine ci siamo dovuti adeguare. Perché ha preteso più soldi. Ha preteso più soldi, però glieli abbiamo dati. Ma la suora l'hai sentita, la suora che canta? Ah, la suora è grandiosa. Io la vorrei sposare, la suora. Beh, adesso sposare. Non è possibile, cioè. No, io la vorrei sposare. Beh, la suora c'ha qualche aspetto di perversione. Anche perché con quei canti lì qualche lira la porta a casa. Ah, tu dici, alla fine la porterà a casa. Secondo me sì. Sì, sì. Sì. Domani abbiamo Vanna Marchi qui in studio. Signora... grandioso, salutamela, una grandissima donna, è quasi come Bergoglio. Bergoglio, no, Bergoglio. Bergoglio. Perché dici quasi come Bergoglio, scusa? Sì. Perché dici? Perché più o meno tutte e due predicavano. Lei predicava in una maniera, Bergoglio predica un'altra, mi sono simpatici tutti e due. Ma sì, ma quella però, diciamo, ha truffato qualche persona, in teoria. Vabbè, ma non è che se uno mi promette il paradiso mi dice la verità, eh. Ah, pure lui, diciamo, mezzo truffatore, pure Bergoglio. No, cerchiamo di essere seri. Effettivamente, questo non ci ho mai pensato, però anche lì spacciare il paradiso non è diverso, diciamo, dallo spacciare il sale. I numeri del lotto. Numeri dell'otto. Va bene, ciao, a presto, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Esatto, che ormai è tutto finito. La Zanzara. La Zanzara, mamma mia, no, che fastidiosa. Non mi molesti moschito. Why don't you go home? Ottima trasmissione, sempre la migliore. Caro David, siamo qui. Ma 800 24. Quello cos'è? Era Brunetta quando che si arrabbiava come basta, che fastidiosa. Quando è che era quello? Un vecchio Brunetta contro di me, quando era? Ma Zanzara, mamma mia, no, che fastidiosa. Mi ricordavo più, Paolo Massa Carrara. Paolo Massa Carrara. Sì. Molto buonasera. Dica. Senta, volevo intervenire riguardo alla storia del signor Moretti. Il signor Moretti, appunto, io chiamo dalla Toscana. Sì. Circa 2 anni fa, voi lo sapete meglio di me sicuramente, è andato in commissione trasporti alla regione Toscana a parlare della tragedia di Viareggio. Sì. Ha saputo soltanto dire questo alla commissione. Ma guardi, è una storia complessa. È una storia complessa. Ha capito? Quello che voglio dire io, un amministratore delegato che dice una cosa così davanti a una commissione dove sono morte 32 persone con quello che guadagna, a me sembra veramente, ma mi fa veramente schifo. E mi lasci dire la battuta, guardi, io sono juventino, ma viva della Valle, ma che io lo faccio presidente interplanetario, ma viva della Valle. Della Valle detto, è un avversario, se ne vada a casa subito. Vabbè. No? E poi gli dirò anche di più, che ho trovato delle foto su Facebook, ad esempio sulla Pisa Firenze ci sono dei treni, fatte proprio delle foto fatte dai pendolari, ci sono dei treni in cui piove dentro al treno, la gente sta con l'ombrello, lo trovate io su Facebook, perciò per me questa persona c'ha da andare a casa, viva della Valle, ma viva della Valle, ha capito? Ho capito perfettamente. Angelo, Angelo da Latina, buonasera. Angelo. Buonasera signor Cruciani. Io non voglio parlare dello stipendio di Moretti, ma di quello che ha fatto Moretti. È una domanda che io rivolgo a voi, a noi, come me che usate il treno. A noi, sì. Io uso il treno, soprattutto la Freccia Rossa, devo dire la verità. Ogni tanto anche le Frecce Bianche, qualche treno locale, alcuni sono ottimi, altri sono pessimi. Ecco. Allora partiamo da questo. Ma il servizio locale è gestito insieme alle regioni, regioni. Lui è un affarista, anche lei Cruciani, se andava al posto di Moretti con quel sistema che ha usato se andavo al posto di Moretti, le ferrovie dello Stato crollavano dopo 15 giorni, guardi. Ma non è vero, lui che ha fatto? Ha mandato via 150.000 ferrovieri. Vabbè, senta, lei fa il ferroviere? Guardi, io ero un ferroviere, quindi glielo dico. Bene, dunque Moretti l'ha mandata via. Eravamo 225.000, attualmente sono 75.000. Ma va la grandissima, meno sono meglio è. Un attimo solo, traffico. Attenzione. Un attimo, traffico. Pensa che allegria. Pubblicità. Che bacca, tu mi hai aperto un mondo, ora ho capito cos'è un fondo. Nasce Risparmio Gestito Che Banca. Investire non è mai stato così pop. Fino al 30 giugno 2014 paghi solo la commissione di gestione. Foglio informativo e documento informativo su chebanca.it. Che Banca. Scegli il giallo. Strade in diretta. Buonasera, 2 chilometri di coda sulla 4 Brescia-Padova dopo un incidente con mezzi pesanti coinvolti tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Per lavori code di 2 chilometri sull'autosole tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. A Roma città ancora disagi per un veicolo fermo in galleria Giovanni XXIII verso la Pineta Sacchetti. Infine segnaliamo a chi viaggia in treno che sono sospesi gli scioperi del personale di manovra di Savona indetto dalle 21 di questa sera e del personale di manutenzione e di manovra della Liguria in programma dalle 9 alle 17 di domani, martedì 25 marzo. È tutto, torniamo tra un'ora. La Zanzara. La Zanzara è quell'odioso insetto. Io certe volte io faccio il tassista, devo spegnere la radio quando sento la Zanzara perché il cliente dice: ma che radio è? Radio Parolacce. Mi ha beccato, gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di Zanzara mi son messo che, ma lei gira sempre intorno a me e balli su twist. Chi c'era qui? Chi c'era? Chi c'era? È andato via quello di prima? Ferroviere c'era. Ah, è andato via sto ferroviere. Donato Varese, dai. Pronto? Sì, Donato, vai. Dovrei parlare di Prodotto o parlare dell'uomo segatura? Dell'uomo segatura? Di chi? De Froci. O dell'uomo segatura, quello uno dagli sdruccio del falegname che ama Sirenzi. Sì. O vorrei parlare veramente dei Froci, quelli che mi hanno detto che si chiamavano ricchioni. No, veramente si chiamano omosessuali o gay. Io li chiamo anche Froci perché ho avuto la dispensa papale dalla signora Concia. Come che mi sembra che Renzi sia un po' più profo ai ricchioni? Vorrei fargli una domanda. Sì. Renzi è lì, Renzi? Sì, è qui Renzi, certo, qui accanto a me. Corta un po' Renzi, sì. Ma se io fossi tuo figlio... Chiami tu dopo, Parenzo. Sì, aspetta, andiamo dove arriva. Vai, Donato. Se io fossi tuo figlio e ti venissi a dire che mi piacciono gli uomini, sì, tanto che me ne faccio 10-15 al mese, sì, tu cosa mi dici? Non lo so, magari direbbe, ti capisco, cerchiamo di come è successo, quando è successo, quando ti sei accorto, ma sei sempre mio figlio. Io credo che Renzi mi dicesse, bestemmierebbe Dio e direbbe, mamma mia, ma non mi poteva capitare il peggio, di avere un figlio ricchione in casa che stava un sacco. Comunque questo protagonismo di far uscire in televisione tutti sti ricchioni, certo. con i cazzi al vento a parlare di dove ha visto non tutto è questo, una società normale. Ma no, non è normale, è vero, non è normale. I cazzi al vento, dove l'hai visto? No, ma hai ragione, non è una città normale. Non è normale, certo. Perché se il mondo fosse pieno di ricchione, non male che ci saremmo già estinti. Beh, certo, non c'è dubbio. Io non dico che un ricchione non deve farsi eiaculare lo sperma nel deratano. Non c'è dubbio. Scusi, professore. Lo deve fare, certo. Poi... Però che non mi venga a dire che è una cosa normale. Ma lei da quando ha questi... Non è normale farsi eiaculare nello sfintere. No. Non è assolutamente normale. Scusi professore, volevo capire, lei da quanto tempo è che ha... assolutamente normale vedere un uomo adesso quello me lo faccio. Ma lei si è alzato dalla corsia? No. Che è successo? Lei si è alzato dalla corsia e gli infermieri non sono riusciti a tenerla? Ascolta me, distruttore della cultura italiana. Ho capito. Di nome come cazzo si chiama? Parenzo. Distruttore della cultura. Non è normale vedersi un omosessuale parlare di Rio, mi sono anche ieri in televisione, due cose ci siamo amati. Non è questo, ma è una società. Lo dobbiamo dire davanti a un uomo che sta morendo di cancro, gli dobbiamo dire che è malato di cancro. Sì. Noi siamo ormai una società malata di cancro. Malata di cancro. Certo. Ma io non voglio soffermarmi molto su questo. Per adesso quando farà effetto quella cosa che le hanno iniettato, vedrà un mondo un po' diverso. Tuo figlio e ti venisse a dire che mi nutro di sperma ogni giorno, tu mi diresti fai schifo. No, io l'avrei già ricoverata in una struttura ma ben protetta, francamente. No, però andiamo avanti. Tu sei un distruttore perché tu parli di un omosessuale essere omosessuale purtroppo non è una se io vado al dottore. Ma lei ha parenti in circolazione? Ascolta me. Lei me un attimo. Lo faccio per lei. Ha parenti in circolazione lei? Ascolta me, vuoto. Ma ascolta tu me, se hai parenti vicini o no? Se io vado al dottore, lascialo parlare. Ma ci vada subito dal dottore. Ascolta me, vuoto dentro. Vai subito dal dottore, però. Il dottore mi scopre che c'ho una glicemia lievemente alta, mi dice lei è malato. E allora? Cazzo, io sarei malato perché ci sarebbe il pancreas che non secerne più quell'ormone, quindi io sono malato. E uno che se va a incatenare con gli uomini dalla mattina alla sera, ma quelli sono i malati, non uno che c'ha una glicemia un po' sbasata, hai capito? Non è solo la glicemia, però, sa? Tu sei malato perché non vai con l'altro sesso, ma tu senti goduria col tuo stesso, cioè sentire sesso, cioè, guardarsi nello specchio e dirsi io mi amo. Vuol dire già questa è una bruttura, è una cosa che non fa. È una bruttura, dice uno. Io si guarda allo specchio, Basaglia... uno si guarda allo specchio e dice mi amo perché amo un uomo. Sì. Già questa a lei fa orrore, giusto Donato? È un errore. Non c'è dubbio. Noi dobbiamo riconoscere dove sta la malattia. E questo infatti anche con lei avrebbero dovuto. Tutta la solidarietà per i ricchioni. tutte solidarietà per i finocchi, tutte solidarietà per tutta questa, ormai come scherzeremo di Maurizio Costanzi, un ricchione non lo dice, la De Filippo è una lesbica che non lo dice, ma la Barale se si era, la De Filippo si era innamorata della Barale, nessuno lo sa, ma tutto questo, questa omosessualità così dilagante che loro dicono l'omosessualità, ma è grave, ma allora che lo diciate, ma dov'è dilagante, ma dove sta la De Filippo, la De Filippo dica io sono una lesbica, ma perché lo dovrebbe dire? Perché lo dovrebbe dire? Lo deve dire, allora lo deve dire perché si vede. Si vede, si vede, ho capito, si vede, si vede, ho capito. Senta, facciamo una cosa, io per adesso non ho mandato ambulanze, no? Perché mi sembrava un caso addirittura più grave, molto più grave. Dunque, in realtà non servono nemmeno ambulanze. Cosa può servire, David? Spiegami. No, può servire sapere se ci sono parenti in zona che lo stanno ascoltando. Ecco, magari... c'è qualche parente in zona, lei che ha figli. Che è un bel ambiente. Beh, ambiente di maiale. Piccolo vuoto dentro. Un piccolo vuoto cosa. Apparenza, a quel sì. Maledetto di Matteo Renzi. Maledetto, a sì. Come maledetto. Porco maledetto, miserabile, disonesto di Matteo Renzi. Sì, prima Renzi. Di dare 85 euro a quelli che poi non sono manco sicuri questi. Quando si va in base ai codici. Sì. Codici, no, ma lei ci va, lei ha il codice rosso, no, sicuro. Codice bianco. No, ma il suo è rosso sicuro, guardi. Quel porco maledetto ha dovuto mettere 80, leggilo perché io avrei messo anche 300, a quelli che hanno uno stipendio fisso. E ai disoccupati quel porco maledetto, quel figlio di puttana maledetto, ma... che lo vorrei vedere sotto scusi. I miei occhi. Per ammazzarlo, adesso bisogna la follia, sì. Purtroppo devo chiamare, non volevo in nome di tutti gli italiani, basta. Matteo Renzi è un brutto criminale, ha messo politicamente, ha messo 85 euro nella busta paga di tutti quelli che lavorano, fregandosene di quelli arriva. Che non sanno che cazzo mettere sotto i denti, basta, quindi, poniamo quindi fine a questa tragedia, dovrebbe essere ucciso, certo. Mi prendo io le responsabilità. No, se lo prenderà all'ospedale che la tira in carico, non si preoccupi. No, lei. Lei è incapace ucciso, di volere. Ucciso. Adesso vi saluto. Arrivederci. Certo. Beh, non c'è dubbio. Capito? Sì. Abbiamo capito. Buon e riposo, verremo a trovarla. Verremo a trovarla in questa struttura protetta, sicuro. Voi siete anche... Credo che quantomeno possiate anche voi essere omosessuali. Che cazzo devo dire? Buon riposo. Buon riposo. Chiamiamo Amort. Malati. Arrivederci. Buon riposo, Amort. Pidi malati, Amort, ci vuole Amort. La zanzara. Oh mamma mia, ci vuole la zanzara. Perché io devo mettere la testa a posto. Adesso c'è Cruciani che c'ha una missione di trovarmi fidanzato a questo punto. Sì, perché tutti single siete diventati all'improvviso, tutti single. Non è vero. Tutti single. Non è vero. Vabbè, lei ce la comi, da quanto è single? Da 4 anni. Ogni giorno sul mio palco recita lo stesso. Continua, caro Parenzo, la nostra ricerca del fidanzato di Lara Comi. Beh, come va? Prosegue. Ci sono un sacco di candidati. Fra pochi giorni si esprimerà anche la signora Comi. Ci saranno degli interventi VIP. Personaggi che si vogliono fidanzare con Lara Comi, che dicono la loro su Lara Comi, certo. Splendida donna, 31enne, europarlamentare di Forza Italia, sì. La quale... Mutuo esente. Beh, ancora questo mutuo esente. Beh, diciamolo, perché è un dato, con patente sì, diciamo, B e mutuo esente. Diciamo che sicuramente se vi fidanzate e magari vi sposate con Lara Comi, non vi toglie i quattrini, perché insomma la famiglia è benestante. Beh, questo questa è la sappiamo. Mia indicazione, questa qua. Ah, ecco. Vabbè. I candidati di oggi. Quali sono i migliori, ragazzi? Raimondo, consulente, 51 anni. Beh, ma vecchietto. Sono top, eh? Ma vecchietto. No, va bene, va 51. Bene. Va bene, vai. 31 lei. Ciao Lara, sono Raimondo Gabriele, chiamo da Udine, ho 51 anni, svolgo la professione di consulente aziendale, ma mi occupo anche di iniziative a fine di bene. Sono disposto a mettere a rischio i giorni miei, la mia anima ancora sete, ha bisogno di quell'anima gemella con cui plasmarsi, e vorrei investire molto in affetti, in progetti familiari per una nuova vita. Beh ragazzi, questo è veramente il top. Ma dai, Raimondo Gabriele Englaro. Englaro come la famiglia Englaro, Ma non c'entra. No, non c'entra niente. Si è presentato come Confederations Knights Crusaders. Ti rendi conto o no? Oh mamma, Cioè, ti rendi conto anni o no? Questo? Raimondo Gabriele Englaro, 51, vabbè, ma scusa. Ma dai, ma poi uno che ha 51 anni ancora non ha guadagnato niente. Nato a Lussemburgo, dice lui, scrive lui, io dico solo cose che vengono scritte dai candidati. Scorpione ascendente bilancia. Il mio carattere è estroverso, morigerato, riflessivo, analitico, coerente, leale, tollerante. I miei hobby sono giardinaggio, lettura, shopping, escursioni in montagna. Così si presenta? Giardinaggio. Aspetta, durante i weekend, corsa, ciclismo, nuoti, io, sì, ciclismo, nuoto, mountain bike, che? Rassetto piede a terra. Rassetto piede a terra. Ti giuro, ha scritto rassetto piede a terra. Ma dai, ti giuro. Ma, sì, no, ci credo, sicuro. Sono fiero di me per l'impegno profuso con l'attività di volontariato nel sociale, per aver improntato tutti i rapporti interpersonali con onestà intellettuale, con rispetto ed equilibrio. Cioè, questo scrivi in un curriculum per presentarsi all'Aracomi. Guarda che bisogna prenderlo sul serio, eh. No, questo è sicuro. Aspetta. Nella mia vita mi sono innamorato due volte. Per il mio futuro sogno di realizzare una famiglia con due figli, maschio e femmina, cioè specifica anche maschio e femmina. Ma come si fa a fare maschio e femmina? Non si può prevedere prima, scusa. Guarda che ha fatto un curriculum inattaccabile. Alla fine ha mandato anche tre foto, quando aveva 28 anni, quando aveva 35 e quando ne ha 45. Com'è? Ti dico solo che quando ne ha 28 sembra più vecchio che a 51, ti giuro. Cioè, sta meglio 51, dici. Ti giuro. Cosa farei per conquistarti? Manifesterei il mio interesse con discrezione, senza renderlo troppo esplicito, affascinandoti senza strafare, ti farei sorridere ricercando sempre il lato positivo e sarcastico delle cose, ti serverei complimenti non scontati o banali, ti proporrei una cena con sorpresa, fa che io diventi una lampada che per te si consuma. Diventi? Una lampada che per te si consuma. Ma questo neanche nei baci perugina si scrive. Ma perché prendere il culo questo fai qua che diventi una oggettivamente lampada? Il migliore, questo qua è oggettivamente il migliore, il ma io penso uno. Di aver scritto tante puttanate in vita mia, ma questa mai. Fa che diventi una lampada. Il mio favorito è questo, ma per adesso Raimondo Gabriele Englaro, serissimo. Ma fermatelo. Serissimo. Altro fidanzato aspirante tale di Lara Comi, Stefano, 36 anni. Ciao Lara, mi chiamo Stefano, 36 anni e vivo a Stoccolma. Io volevo rendermi disponibile per un eventuale fidanzamento, quindi se vuoi organizzare una qualsiasi cena, magari ad Arcore, una cena elegante, dove vuoi tu, io mi rendo disponibile, posso venire, beviamo la Coca-Cola Light, se c'è la musica io comincio a ballare, eventualmente mi vesto anche da prete e da suora con la parrucca rossa, come vuoi tu. Non c'è problema. E così possiamo conoscerci ed eventualmente, se proprio il fidanzamento non va a buon fine ufficialmente, beh, a me basta, ti dico la verità, un appartamentino in via Olgettina, 2500 euro al mese e la mia disponibilità comunque rimane. Ciao Lara, ciao a tutti. Vabbè, questo ci sta a pià per culo, va. Sì, Stefano, questo sta a pià per culo, dai. A Stefano e vattene a casa, dai, su. Questa è una cosa seria, mica è un contest così, è un reality, un grande reality, la reality della zanzara. Troviamo un fidanzato all'Lara Comi, su. Chi c'è? Un altro, com'è che si chiama quello che mi avete detto? Armando, Armando, anni? Boh. Ah, perché si chiama Comi. Si chiama Comi, capito? Armando Comi. Ah, qui non ci sarebbe neanche problema in caso di matrimonio. Sentiamo questo, è altro candidato di oggi. Ciao Lara, io mi chiamo Armando. Non ti sto a dire che lavoro faccio, quanti anni ho, se sono bello brutto, ricco o povero. Perché ho un'altra cosa da dirti, che secondo me è molto più importante. Io mi chiamo Armando Comi. È proprio qua il mio segreto. Il segreto della mia candidatura per diventare un tuo pretendente è il mio cognome. Credo che noi dobbiamo incontrarci per rimettere insieme questo grande nucleo familiare che è rappresentato dai Comi. Per cui, se tu sei interessato a questa cosa, contattami immediatamente, perché vedrai che la nostra famiglia tornerà ad essere una grande famiglia. Credo che ci sia un nucleo sul quale fondare tutto ciò, e questo nucleo è il nostro grandissimo cognome. Ciao. Vabbè ragazzi, si prosegue, eh? Altre furbo, puntate, però, altre sì, è furbissimo. Altre questo puntate in settimana, la zanzara è radio24.it. Piero Rimini, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani e dottor Parenzo. Vai, vai. Io vi ammiro. Mi sono fatto 400 km questa sera in macchina e gli ultimi 10 km pensavo di essere arrivato in meta tranquillo, invece chi era quel signore che ha chiamato prima? Un dottore? Chi era? No, quale? Quello di quel Varese. Professore di Varese. Ricoverato. Professore di che cosa? Di Varese, che ne so, professore di cazzate. Mentale. Io ragazzi vi ammiro, io pensavo di farmi il culo io, ma anche voi non scherzate, perché questo io mi rendo conto perché siamo ridotti così, questi hanno diritto al voto. Beh, ragazzi, però tutti hanno diritto al voto, anche i più pazzi, anche sì. La gente malata, adesso non esageriamo. Esatto. Dai, che vorresti fare? Limitare il diritto al voto a che cosa? No, assolutamente no, era uno sfogo, perché io sentire gente che dice queste cose qua, ma non lo so, boh, non ci siamo con la testa, dai. Non ci siamo. Ma qual è quello che diceva che i gay sono malati, eccetera, sì, eccetera? Poi l'altro ha detto che quel problema è su Renzi, io non sono renziano, però boh, io questo mio è un professore, io allora sono un genio, ragazzi. Vabbè, che vuoi fare? È un mio sfogo personale, non era. Anzi, veramente, vi ammiro perché dovete sopportare certe serie di ascolto. Serie, sopportate insomma. Degli individui che sono veramente fuori dai coppi. Va bene, grazie. Okay. Alberto Milano, buonasera. Pronto, mi sente? Sì, ti sento, dimmi. Ciao Cruciani, ciao. Ma Parenzo è in studio? No, sono qua a Roma. No, perché si sente benissimo stasera. È a Roma, che vuoi fare? Studio a Roma. Sì. Allora, io volevo dire, prima di parlare di Moretti e dello stipendio, volevo dire che ogni sera vi deve fare un favore, Cruciani, mi deve mettere una pillola, un pezzettino di Razzi, di un discorso. Ma di io Razzi. Lo dico, non lo metterò perché, mai. No, ma le spiego perché io lo uso come terapia, nel senso che io ho un figlio, no, che frequenta bisogna la prima mettere media. Ogni sera Razzi, bravo, ogni sera bravo, bisogna mettere Razzi. Da quando vi faccio ascoltare Razzi, praticamente in italiano è migliorato tantissimo, mi coniuga bene i verbi, condizionali. Cioè perché lei dice faccia l'opposto, no? Faccia l'opposto di quello che fa. Bravissimo, io li metto su un pezzo di Razzi, spendo dei voti bellissimi. Beh, ha anche questa funzione allora. La chiamo Razzi terapia, vabbè, comunque la devo mettere ogni sera. No, volevo intervenire per quanto riguarda lo stipendio di Moretti, no? Lei, perché c'è una contraddizione nel suo pensiero, nel senso che lei venerdì ha detto che secondo lei lo stipendio di Moretti non andrebbe toccato, giusto? Almeno penso che la pensa ancora così, no? Su che cosa, scusi? Sullo stipendio di Moretti. Ma io non ho detto che deve rimanere com'è. Io ho detto che fare una polemica sullo stipendio di Moretti, che rispetto ad altri stipendi di manager pubblici, è uno stipendio, secondo me, adeguato a quello che è il valore delle ferrovie. Poi, se trovano un manager che prende 400.000, 300.000 per governare le ferrovie dello Stato, lo trovassero. Ma che me ne frega a me? Che me ne importa a me? Ok, però lei la polemica l'ha fatta anche sugli stipendi dei lavoratori dell'Electrolux. Ma quello è un altro discorso, ma che c'entra? No, è uguale, perché lì è un'azienda. Ma quello è il privato. È un'azienda in crisi. Ho capito, è un'azienda, però è un'azienda in crisi, giusto? Quella un'azienda in crisi, se l'azienda dice diminuisce. Aspetti un attimo, aspetti. Chi c'è qua? Aspetti. Pronto? Sì, buonasera. Parlo col signor Maurizio Ruggero. Sì, buonasera, mi dica. Buonasera, io sono Papa Francesco. La disturbo? Sì, come no? La disturbo? No, non mi disturba, però voglio dire, dovrebbe imparare meglio a far la voce, però. Signor Maurizio Ruggero. Sì. Volevo chiederlo. Lei è una persona, un punto di riferimento per la Chiesa più ortodossa, giusto? Volevo invitarla in Vaticano a Santa Marta per discutere dei dogmi della Chiesa. Mi farebbe piacere incontrarla. Perfetto, vai, facciamo una cosa. Mi mandi una mail, posso lasciare la mia mail così dopo se mai ci sentiamo per io la faccio, guardi, la faccio chiamare dalla segreteria di Stato. Senz'altro. E così noi possiamo metterci d'accordo per vederci certo. Parlare. Perfetto, la ringrazio tanto. A Ruggero! Grazie a lei. A Ruggero! Ma che vuoi che sia, lo so che sei da voi, no? È ovvio. Allora, come andiamo? Comandiamo rispetto... Ma che stai facendo? L'ultima volta che ti ho sentito è quando Parenzo ti ha beccato per l'indipendenza del Veneto. Che cosa stavi facendo per l'indipendenza del Veneto? Basta, ti occupi pure dell'indipendenza del Veneto, basta, no? Sì, è vero, effettivamente sono troppe cose. No, ma abbiamo fatto questa... Ma io non ho capito una cosa, una suora che canta, no? È questo che ti volevo chiedere stasera. Una suora che canta, ti fa ribrezzo? Dunque, intanto se canta in chiesa no, evidentemente. No, ma che chiesa? Una suora che canta a un concorso in televisione. Sì, ho presente Hai caso, presente il caso di Suor Cristina, favolosa interprete, eh? Sì, come si chiama di cognome la Suor Cristina, te lo ricordi? Si chiama Lo dico io, se no. Come si chiama? Aspetta, sì, ce l'ho qua sotto, sì, ce l'ho. Si chiama Scuccia, si chiama, e ha scucciato, va bene? Cioè ha scocciato Suor Cristina, perché ha scocciato? Ma certo, ma perché non è una cosa che una religiosa debba fare, quella di andare ha un talent, come viene chiamato, cioè una selezione. Ma perché una suora non può andare a un talent? Che male ha fatto? Perché bisogna essere seri nella vita. Se uno è religioso. Ma tu aboliresti anche le suore, figurati. No, no, io le suore le mantengo, poiché facciano le suore e non le pagliacciate bergogliste come quella appunto di poc'anzi, perché è evidente come il sole che chi è consacrato a Dio ha una missione di quel tipo lì. Ma poi avete visto anche la scena di quando si dimenava, quando si è abbracciata addirittura lì col DJ, una roba vergognosa. Cioè, tutto made in Concilio Vaticano II. Ma cosa c'è made? Scusa un attimo, ma secondo te è in combutta con Bergoglio, Suor Cristina? Non so se sia in combutto con Bergoglio, certamente sulla stessa linea, cioè quella praticamente di sfasciare tutto per aprirsi al mondo. Cioè più si aprono al mondo più si sfascia la Chiesa, e queste sono le conseguenze. Ah, dici tu, anzi, tu dici, Suor Cristina e Bergoglio portano la Chiesa allo sfascio, questa è la teoria. Sì, oddio, non è che sono solo loro, è tutta la linea conciliare che va in quella direzione. Ma la linea conciliare, Bergoglio... ma io tu non so se ti rendi conto di queste cazzate della linea conciliare, parli solo tu. Cioè parli solo tu in Italia, cioè questo è un sacro. E come no? Dai, su. Ma stiamo leggendo adesso tutto un testo relativo a queste cose, cioè tutto un mondo che vi sfugge a voi. Senti, l'ultima volta che io ti ho sentito, l'unica cosa fondamentale che ho sentito da te è che sei vergine, questo è il punto fondamentale, capito? E l'unica cosa fondamentale che ho sentito io è che Cruciani ha una vita da schifo, perché uno che parla così, cioè che non rispetta la legge di Dio. Ma quale prevede... legge di Dio? Quale? Quale? Ecco, non è vero. Prevede che si vada solo con la propria moglie, evidentemente fuori con le carte. Lasciamo stare il povero Parenzo che non fa testo, essendo israelita. Ma tu non è possibile che io non mi capaci di questa cosa, che sei vergine. No, ma tu ti devi capacitare del fatto. Ruggero, com'è possibile che tu sei vergine? Spiegami, com'è possibile? Ma è possibile che tutte le persone che non sono sposate non debbano avere relazioni se non con la propria moglie? Ma non è quanti anni hai, Ruggero? Quanti anni hai? Quanti anni hai, Ruggero? Ho 56 anni. Che tu mi vuoi dire che a 56 anni non ti sei manco una volta toccato? Allora, una volta per tutte, posso chiedere di avere un confessore un po' migliore di Cruciani? Dai, su, Ruggero, basta, io insisterò fino alla morte su questo, scoprirò la tua vita sessuale nascosta, perché tu hai sicuramente una vita sessuale nascosta. Allora, trovatemi un amante, allora eventualmente magari posso anche considerare di fidanzarmi e poi di sposarmi. No, però, conoscendolo è impossibile. Ma no, al di là di questi aspetti, dai, su. Aspetti, voi non siete nelle condizioni di poter moralizzare sulle persone. Ma noi non vogliamo moralizzare nessuno. Sì, noi non vogliamo moralizzare nessuno, questo è il punto. Noi, io almeno io sono un libertino, sono per una società molto aperta da questo punto di vista. Se uno è un libertino, cioè se uno è un malvissuto, se uno è un sozzone, non deve ma andare che zozzone? A... Quale zozzone? Non deve andare a prendere il puntarlo contro quelli che non lo sono. Ci mancherebbe dovessimo essere tutti come te e come Parenzo. Dio ne scampi, cioè, ma che zozzone? Ma zozzone sarai, sarai su questo c'ha ragione. Ma quale ragione? Ma quale ragione? Dai, su, ma come si permette di dire zozzone? Dai, zozzone, sacrum imperium. Devo una risposta sulla riunione dell'altro giorno. Quale riunione? Quella di Treviso, te l'hai già dimenticato. Ma quale Treviso? Vabbè. I malvissuti fanno altre cose, poi hanno anche. Ruggè, ci sentiamo un'altra volta, dai. Un'altra ma volta. Ti ricordi lo scontro che hai fatto con Tinto Brass anni fa da me? Ti ricordi? Sì, come no, certo. Beh, che gli hai urlato, vecchio malvissuto, gli hai detto. Sei stato veramente inopportuno. Numero uno, col Tinto maestro Brass. Numero uno, Brass. Sei stato un gallo per la verità, se ti ricordi. E allora, scusa, Claudia Coll che si è convertita. Come la giudichi, Claudia Coll che si è convertita? Allora, se si è convertita, nel senso che bisogna un po' vederle queste cose, le conversioni, perché tante volte questi divi dello spettacolo dicono che si convertono e invece poi che fanno? Restano zozzoni lo stesso? No, beh, zozzoni come vuoi è difficile, ma diciamo abbracciano una religione rilasciata che è quella dei conciliari. Però se la i conciliari, ma no, Ruggero, no! Fammi sentire Alberto da Milano, chiudiamo con Alberto da Milano. Ruggero, zozzone sarai tu. Alberto, dimmi. Sono ancora qua, sì. No, volevo dire che è vero, uno per quanto riguarda l'Elexus, è vero, un'azienda privata, perché però è un'azienda in crisi, ma questo invece è uno stipendio pubblico e non mi pare che lo Stato italiano che sia uno Stato florido, uno Stato è in crisi anche quello, per cui le cose insomma combaciano, voglio dire. Se vabbè, Mauro, provincia di Milano, veloce, Mauro. Sì, un candidato ideale per Forza Italia alle europee, io propongo l'unico politico italiano o mondiale che riesce a dialogare con le autorità della Corea del Nord, un altro candidato per europei, Razzi, piglia voti, si candidasse insieme a Crozza, col volto di Crozza. Ci sentiamo domani 18:30, ciao. Per farvi capire a voi, la gallina quando entra nell'allevamento, no? La prendono,